Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Sono uno studente di ingegneria gestionale industriale a Udine. Per quanto riguarda la ricostruzione dell'Abruzzo, è fondamentale partire anche dallo stato d'animo delle persone, e in particolare dei bambini. Infatti, se i bambini riprendono a sorridere, probabilmente un soffio di speranza arriverà pure ai genitori. Mi fa tuttavia ridere il carattere puramente mediatico che hanno tutti gli interventi del ministro dell'istruzione, Gelmini, che cerca di recuperare, ansimando, un po' di consenso. In quanto studente non posso dimenticare che quest'anno, già dalla seconda retta universitaria, gravano sulle spalle della mia famiglia 300 euro in più, nei prossimi anni aumenteranno ulteriormente, proprio a causa della Gelmini. L'Abruzzo, con le sue case in muratura di sabbia, insegna che la ricostruzione deve coinvolgere non solo le mura, ma tutta l'Italia, almeno dal punto di vista morale, come ha detto anche il Presidente della Repubblica Napolitano. Tutti dobbiamo fare un esame di coscienza. Allora cominciamo a non gravare sulla scuola pubblica, anche se siamo durante la crisi, perché è da lì che provengono i valori e lo stesso futuro di un paese. Sono anche convinto che il sistema universitario italiano debba migliorare parecchio, ma ciò non avverrà mai con Italia una ricerca già soffocata dai pochi finanziamenti. Bisogna insistere sul merito e sui controlli. Cordialmente, Jacopo. Caro direttore, i politici si scandalizzano per la satira di Vauro? E la pubblicità apparsa venerdì 17 aprile a tutta pagina nell'edizione friulana de Il Gazzettino, nella quale si invitano i clienti a comprare in un outlet per devolvere il 10% del ricavato in beneficenza. Che cos'è? Altruismo? O, come credo, approfittare dei buoni sentimenti della gente per vendere di più in un momento di crisi? Saluti, Giambattista. Gentile direttore, ascolto con interesse le dichiarazioni di Berlusconi e penso stia dimostrando ogni giorno di più di saper fare l'uomo di Stato. Ho ascoltato le richieste di una parte della maggioranza, ha detto Berlusconi, dichiarando di saper fare delle scelte, di prendere delle decisioni, di accettare la fatica di saper scontentare anche qualcuno dei suoi. Bravo, così si fa. Dal punto di vista di chi, come me, sta a sinistra per natura e cultura e masticherà amaro ancora per qualche lustro, l'unico grido possibile è il seguente: avesse saputo rispondere così anche il tetragono Prodi. Fino a quando prenderemo lezioni dal Cavaliere? Lui è bravo, ma sta dall'altra parte. Lui e Fini giocano di squadra. Bossi sta nella partita. Loro governeranno perché non sono duri e puri. Saluti cordiali, Roberta. Gentile direttore, non le sembra che Berlusconi in questa occasione, anche in altre, non abbia dimostrato di avere i cosiddetti attributi? Ha invece dimostrato di essere attaccato al cadreghino come tutti gli altri. Ma come? Un miliardario come lui che si comporta come un qualsiasi altro deputato. Saluti, Franco. Caro direttore, hanno capito che il consenso per Berlusconi è fuori controllo. Hanno capito che anche in questa purtroppo tragica situazione il Presidente del Consiglio c'è, si vede, è presente e mette in gioco la sua faccia, le sue promesse, i suoi progetti. Ed è dura da digerire. Come era già stato fatto a Napoli, i ministri si sono riuniti sul posto dove c'è l'emergenza, dove è necessario sentire fisicamente la presenza dello Stato. Forse incontrarsi a Roma non avrebbe cambiato molto dal punto di vista delle decisioni, ma si sa quanto sia fondamentale per chi vive una tragedia sentirsi in primo piano e sapere che non si dicono solo parole, ma si agisce. Il lato psicologico di certi provvedimenti è molto importante e non deve essere sottovalutato. Chi lo fa, chi ridicolizza certe scelte, è solo perché teme più di ogni altra cosa che Berlusconi possa rafforzarsi ancora di più. Teme che il merito di comportarsi bene di questo governo sia visto, toccato con mano. E allora si cerca di far passare la presenza partecipe del Consiglio dei Ministri in passerella vanitosa, in pubblicità mediatica. Certe affermazioni di chi critica Berlusconi sono piccole, hanno il sapore del veleno, dell'invidia, di chi non perde l'occasione di tacere. Un caro saluto, lettera firmata. Sono Sono contro la censura sia dell'informazione sia della satira, ma penso che quando un giornalista, un comico o un fumettista non hanno niente da dire, sia meglio che tacciano. La sospensione è secondo me una sanzione adeguata. Maria Gilda. Caro direttore, io credo che la miglior censura nei confronti di Santoro sia quella che applico io. Ogni tanto faccio zapping su Anno Zero. Dopo 30 secondi, non sopportando i toni e l'approccio, ritorno ad altri programmi. Non sono d'accordo su sospensioni o editti bulgari. Vale il detto, se li conosci, li eviti. Se c'è qualcuno a cui piace, ben venga e buon pro gli faccia. Probabilmente quello che Santoro vuole è provocare e attendere le reazioni burbanzose e stizzite, per poi ciurlare nel manico. Comunque non mi si venga a dire che c'è il regime. In questo paese ciascuno può dire quello che vuole. L'unica cosa che è giusto vietare è l'offesa personale e il turpiloquio. Ma le idee lasciamole, se non diventano risse o rivolte, ma fonte di confronto. E a ben guardare, a mio avviso, sono più offensivi per il buon gusto e la decenza i Grandi Fratelli, le fattorie, voyeurismo allo stato puro, per non parlare dell'imbecillità di certe trasmissioni sportive di calcio, ma anche in questo caso, se c'è chi le guarda, vuol dire che hanno la loro ragione di esistere. Buon lavoro, Marco. Direttore, io interpreto le parole del Premier a proposito dell'Election Day come un grosso colpo di teatro alla sua maniera. Quale modo migliore di uscire da questo ginepraio scaricando la colpa interamente sulla Lega? In sintesi, la mia intenzione era quella di risparmiare, ma la Lega ha minacciato la crisi di governo, pertanto non avevo alternativa. Cordialità, Gianluca. Sulla questione dell'Election Day, facciamo finta che siano necessari solo 150 milioni di euro, come dice il ministro Maroni, anche se nel passato ne sono stati necessari almeno il doppio per attivare singolarmente i seggi referendari. Comunque, con 150 milioni di euro si costruiscono 1000 appartamenti per 1000 famiglie, per coloro che hanno avuto la casa distrutta. Vi sembrano pochi? Vi sembra giusto? Luisa. Caro direttore, sono certo che sono noti a molti, forse a tutti, i lavori che si dovrebbero fare per mettere in sicurezza tutto ciò che di insicuro è stato costruito in Italia. Ma noi già non ce la facciamo a correre dietro alle emergenze, che non ci mancano mai. Non abbiamo mai i soldi necessari per ricostruire i guai dei terremoti già avvenuti, delle frane, delle alluvioni. Come si fa allora a pensare di trovare i fondi per mettere in sicurezza quello che è ancora su, che apparentemente gode di ottima salute, ma che rappresenta un potenziale pericolo? È un problema grandissimo, è un problema unicamente di soldi, per questo si fa finta di niente e si pregano tutti i santi perché non accada nulla. Come si può trovare il denaro? Si potrebbe vendere qualche opera d'arte, forse. Si potrebbe fare una raccolta fondi come si fa per la ricerca, forse. O sarebbe il caso di cominciare sul serio a non gettare i soldi delle tasse dei cittadini, che si disperdono in mille rivoli, come l'acqua delle tubature dei nostri acquedotti. Bisogna fare un esame di coscienza, ci è stato detto. Ma per fare l'esame, beh, la coscienza bisogna averla. Tutti quanti lucrano sul pubblico, tutti quanti sperperano risorse. Capiscano che è arrivato il momento di finirla con gli sprechi e gli arricchimenti personali. Chissà se si riuscirà a trovare più soldi senza aumentare le tasse. Chissà che non si scopra che arricchisce di più il benessere del paese in cui si vive. Chissà se la capiranno, prima o poi, che l'onestà è più gratificante della furbizia. Il problema è che per il poi non c'è più tempo. Guido. Gentile direttore, si discute tanto sulla data in cui votare il referendum, ma non si sprecano molte parole sul perché del referendum. C'è un sacco di gente che non sa neppure cosa si debba decidere in questa convocazione, sfugge l'argomento, non si sa quasi perché ci sarà e a chi servirà. Come mai non si vuole spiegarne il motivo? La gente è presa da tanti problemi e forse questo è un referendum che non appassiona, che apparentemente interessa poco, che non assorbe l'attenzione. Forse i referendum andrebbero riservati per problemi più forti, più sentiti, come il divorzio, l'aborto, grandi interessi sociali in cui tutti si sentano coinvolti. Così si rischia veramente di gettare denaro, al di là della data scelta. Giulia. Il primo scandalo, a terremoto ancora in corso, sono le parole del capo della procura aquilana. Teme che arrivi un fiume di soldi e che pertanto mafia e camorra si infiltrino. Io temo invece che la giustizia non sappia essere tale e che cerchi di nascondere le proprie colpe con denunce tanto rituali quanto inutili. Fa sapere il procuratore capo di aver acquisito gli atti della commissione parlamentare che già esaminò e descrisse lo scandalo dell'ospedale, crollato. Perché il procuratore capo si muove solo oggi? Non gli avevano detto prima della commissione? La notizia di reato non è il crollo, ma l'edificazione. Perché non si è mossa la Corte dei Conti contestando il danno erariale di lavori avviati nel 1960 e conclusi dopo più di 30 anni? L'impunità dei responsabili, procurata dall'incapacità degli inquirenti, è una delle cause dei disastri edilizi e morali. E veniamo alle mafie. Esistono, lo so, ma se l'affluire di finanziamenti e il partire delle opere pubbliche fa temere che i delinquenti facciano affari, vuol dire che a governare la spesa ci sono o dei loro colleghi o dei deficienti, e vuol dire che in ogni caso la giustizia è una barzelletta. Che dovremmo fare? Tenerci le macerie per salvare la virtù? I criminali sfruttano le opere pubbliche quando queste consentono di moltiplicare i guadagni, grazie alle pressioni politiche ed amministrative. Basterebbe fissare 3 paletti. A. Esatta data dell'inizio dei lavori. B. Data entro cui devono finire. C. Natura e valore dell'appalto. Nessuno dei 3 paletti può essere spostato. Si utilizzino 3 strumenti. 1. Trasparenza su ogni singolo subappalto. 2. Così anche nelle transazioni e nei flussi di denaro. 3. Accesso delle autorità ai cantieri per verificare il rispetto delle tecniche e dei materiali pattuiti. Se a queste cose s'aggiungesse un'autorità giudiziaria capace di leggere le carte e le denunce, prima e non dopo i disastri, non guasterebbe. Se poi ci fosse una classe politica interessata ad accreditarsi come capace e non a ritirarsi da sistemata, ancora meglio. Pensare che con gli sfollati nelle tende il rischio sia nella ricostruzione è una follia. I denuncianti in servizio permanente effettivo facciano il loro dovere, che non consiste nel proporre alle telecamere quel che si dice al bar. Lettera firmata. Guadagno 68.000 euro lordi all'anno. Sono un lavoratore dipendente e quindi posso esercitare un'evasione fiscale pari a zero. Magari non ci rientro nemmeno tra i ricchi, o magari sì, perché al populismo non c'è mai fine. Ma sono contrario a questa nuova proposta di tassazione dei ricchi. E non mi addolcisce l'idea, neanche l'ipotesi, che paghino anche i parlamentari, che potranno facilmente recuperare allargando il ventaglio delle proprie prebende. Ho sempre in mente, invece, i tanti miei conoscenti e amici che dichiarano 25.000 euro e si comprano un nuovo appartamento con i 250.000 evasi. Perché le cifre sono queste. Ma tutti fanno finta che non sia vero. Ferrero in primis, lui che l'evasione fiscale la dovrebbe mangiare a morsi e invece si scatena contro quei pochi a reddito alto che dichiarano tutto perché dipendenti. Meno male che Ferrero non conta niente o quantomeno non tanto da poter trasformare in legge le sue intenzioni. Ma la cosa sconvolgente è che tanto più una proposta è stupida, più tutti sono d'accordo. Da Ferrero a Casini. Poveri noi. Cordiali saluti, Marco. Caro direttore, in Tunisia per acquistare qualsiasi bene di valore superiore a 10.000 euro, case, automobili, barche, eccetera, il venditore chiede, assieme al certificato di residenza, anche il quitus, un documento rilasciato dalla finanza, che attesta che il soggetto è in regola con il fisco. Sapete quello che è successo? Che tutti in Tunisia si sono messi a dichiarare anche più del dovuto, per essere sicuri di poter acquistare senza incorrere in rogne amministrative e burocratiche. Distinti saluti, Salvatore. Buongiorno. Premesso che un bel gesto di generosità da parte della casta politica non sarebbe niente male come finanziamento per la ricostruzione dell'Abruzzo, mi sembra una buffonata quella della tassa sui redditi alti. Perché? Semplice. Già sono pochi gli onesti che dichiarano, figuriamoci se cominciamo a tassarli ulteriormente. Piuttosto, indebitiamoci temporaneamente e diamo inizio a una dura e seria lotta all'evasione fiscale su scala nazionale, che sono certa rappresenterebbe per il nostro paese una gran bella risorsa. E inoltre, accettiamo i finanziamenti dagli altri paesi. Saluti, Alessandra. Queste